Venerdì 17 dunque e sabato 18 giugno, cioè questo fine settimana, a cominciare appunto da dopodomani nel pomeriggio, la festa di due giorni organizzata da Radio Onda Rossa e per Radio Onda Rossa, per sostenere Radio Onda Rossa, per consentirgli di continuare a trasmettere dopo 39 anni dall'inizio delle sue trasmissioni. Non c'è da nascondere che insomma siamo sempre sul filo della difficoltà nel pagare le bollette, nel pagare che siano del telefono o della luce, quelle sono le spese maggiori. Ce n'è una proprio arrivata pochi giorni fa della luce, dell'energia elettrica, che riguarda il trasmettitore su di Montecavo e che abbiamo una scadenza proprio molto ravvicinata, e se non la paghiamo c'è il rischio che ci staccano l'erogazione dell'energia elettrica. Quindi un appello, come sempre una sollecitazione, ascoltatori e ascoltatrici, per sottoscrivere a Radio Onda Rossa con i consueti numeri, che sono il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, 00185 Roma, oppure se potete andare sul sito, se disponete di un computer, sul sito della radio, che è www.ondarossa.info, troverete anche altre modalità di pagamento che non necessitano di andare di recarsi alla posta a fare un conto corrente postale. Quindi, tornando a questi due giorni di festa di Radio Onda Rossa, insomma, innanzitutto la musica, il programma musicale è abbondante e variegato, a partire dalle 21 di venerdì, quindi ci sono ben quattro complessi, uno meglio dell'altro, dicono chi ne sa più di me, insomma, sicuramente c'è reggae, c'è rock, ci sono compagni, un complesso femminile, c'è un altro sempre sulle varianti del rock, insomma una offerta musicale con concerti, con gruppi molto simpatici, molto originali, alcuni conosciuti, altri meno, ma insomma tutti quanti, e poi hanno una grande caratteristica, che vengono a suonare con piacere per Radio Onda Rossa, e questo potete capire quanto piacere ci faccia anche a noi. Sabato poi il pomeriggio è dedicato dalle 18 ai bambini e bambine, ovviamente ai più piccoli, e perché pensiamo che spesso non ci sono magari momenti dove anche per loro c'è una possibilità di ascoltare delle cose, dei racconti, magari anche un po' mimati, un po' rappresentati. E quindi con la nostra trasmissione di Scarpette Rosse si è pensato di dedicare un paio d'ore, a partire dalle 18, sempre alla SNIA, parliamo sempre della festa che si svolgerà alla SNIA, a partire dalle 18 a bambini e bambine, con letture ad alta voce di fiabe e albi illustrati anche, insomma, quindi con illustrazione di figure eccetera. Poi ci sarà una merenda ovviamente per i bambini e così via, accompagnati dai loro genitori, quindi insomma un tentativo di fare un pomeriggio diverso anche per loro e anche per i loro genitori, insomma. Dalle 21 poi c'è una mano sul cuore numero 5, quindi la quinta edizione della Mano sul Cuore, che è questa iniziativa dove parecchi attori e attrici, sempre amici e simpatizzanti di Radio Onda Rossa, vengono a dare il loro contributo recitando simpaticamente delle cose simpatiche, allegre, tutti bravi, tutti simpatici soprattutto, e insieme a un corredo musicale molto nutrito, perché ci sarà reggae, beach, mojito, trash, spritz e bar che accompagneranno durante l'esibizione della Mano sul Cuore numero 5. Ci sarà tutta questa diciamo sarabanda, accompagnamento insomma di sia musicale sia di punti dove prendersi una bibita, mangiarsi una cosa. Ci sarà cibo, speriamo, per tutti i gusti, quindi vegano, non vegano e così via, e quindi la possibilità anche di passare l'intero sabato alternando lo spettacolo, la visione dello spettacolo, La Mano sul Cuore, ad altri momenti, diciamo così, di conversazione, familiarità e piacevole trascorrere di una serata insieme a amici, compagni e compagni, e soprattutto insieme a Radio Onda Rossa. E poi c'è ho lasciato per ultimo, viceversa, è l'appuntamento di venerdì 17 giugno, dopodomani alle 18:30, con un dibattito che Radio Onda Rossa, insomma, su un argomento che Radio Onda Rossa segue da molto tempo, e questo ne parliamo fra qualche minuto. Allora, di nuovo, eccoci qui, 12:16, parliamo della festa questi due giorni di Radio Onda Rossa, e abbiamo accennato alla parte più, diciamo così, di divertimento, di svago e così via, ma in quella parte poi arriveremo anche a parlare del dibattito che ci sarà venerdì alle 18:30, ma nella parte più di divertimento, dalle 21 del venerdì e anche la sera dopo con lo spettacolo La Mano sul Cuore 05 numero 5, ci sarà la Riffa e le aste di che cosa? Di quattro bellissime biciclette che un compagno molto bravo che da sempre le accomoda per tutte, insomma, le sistema e tanti lo conoscono e così via. Anche lui ci ha fatto questo regalo, ce l'ha messa a disposizione proprio per come forma di sottoscrizione per la radio, e quindi ci sarà sia la Riffa sia l'asta. Vedremo adesso come svolgerlo poi concretamente, come vendere i biglietti, come saranno venduti e così via, come sarà svolta l'asta. Sarà anche un momento divertente, insomma, no, di svolgere quest'asta, ma queste quattro bellissime biciclette, una diversa dall'altra, insomma, più belle, meno belle, ma insomma tutte rimesse a posto e sistemate da questo amico e compagno che ce le ha sostanzialmente regalate e le ha messe a disposizione per la radio. Quindi anche questo sarà un momento non solo importante per le finanze della radio, ma soprattutto divertente per chi sarà lì. E allora arriviamo al dibattito. Il dibattito che già dall'anno scorso noi avremmo voluto cominciare a intraprendere, non solo dai nostri microfoni, perché da quello lo facciamo sempre, ma soprattutto con momenti proprio di partecipazione diretta, fisica, di compagni e compagne, quindi con un confronti fra tutti e tutte, e soprattutto all'interno del movimento, è quello che riguarda le migrazioni e i migranti. E questo noi cerchiamo, insomma, è un tema che ci sembra molto importante, che riveste non solo aspetti umanitari, come cercheremo anche di spiegare proprio in questa circostanza, ma che diventa sempre più un tema profondamente politico, che incide sull'equilibrio generale di non solo del nostro paese, ma, come vediamo, di tutta Europa. Questo dibattito noi lo cominciamo alle 18:30. Se abbiamo invitato Sandro Portelli, che, insomma, non credo abbia bisogno di presentazioni, comunque un compagno che insegna da tanti anni anche all'Università di Roma, mi sembra letteratura americana, e comunque, insomma, partecipe di iniziative diverse, interviene, ha scritto moltissimi libri di carattere culturale, politico, insomma, e ha un punto di vista, a noi è sembrato, insomma, tra quelli finora espressi sul problema dei migranti e delle migrazioni, che noi sentiamo più vicino, perché si parla finalmente di un problema, se non direttamente di classe, di un problema, questo delle migrazioni e dei migranti, che deve far riflettere anche da questo punto di vista, perché se non è direttamente rivendicato da questi disperati, da questi senza patria che scappano dalla fame, che scappano, ma ultimamente soprattutto dalle guerre, se non lo rivendicano come elemento proprio di lotta, e quindi che chiedono di essere accolti non in virtù della pietà, della misericordia, di questi criteri qua, ma in virtù di una necessità che si fa sempre più non solo impellente, perché le guerre sono sempre più micidiali e le devastazioni sono veramente quasi infinite, potremmo dire, insomma, non resta più niente a vedere queste immagini delle città distrutte e così via, ce ne abbiamo soltanto così un'immagine oggettivizzata e molto, molto raffreddata di quello che può essere il dramma che si vive là. Però, ecco, se non è direttamente una richiesta di questo tipo, certamente rimanda a un problema di questo tipo, perché poi chi le fa queste guerre, in nome di che cosa? Oggi le fa l'ISIS, ma chi ha armato l'ISIS, chi ha consentito, chi ha fatto sì di umiliare tanti popoli, di sfruttarli, di creare le condizioni perché l'ISIS o organizzazioni come la sua avessero buon gioco su masse molto grandi oggi di popolazione che per un verso o per un altro li seguono, e quindi riconoscono questa attrattiva di queste formazioni estreme. E se non appunto alla domanda chi ne è responsabile, non possiamo non considerare l'intero Occidente, in particolare l'Europa che si è sempre vantata di queste di essere la culla della democrazia, la culla dei diritti, tutte queste belle cose qui, che però nel mentre ha predicato per tanto tempo, fin da, diciamo, dall'illuminismo, quindi con la rivoluzione francese, con tutte le cose che sono venute dopo, libertà, uguaglianza, fraternità, queste bellissime parole, e nel mentre questo era la vetrina, l'etichetta, il biglietto da visita dell'Europa, poi l'Europa, quest'uomo a cui, quest'essere umano a cui tanto si rifaceva, lo massacrava in tutti gli angoli della terra, in tutti gli angoli del mondo, insomma, a cominciare dalle sue stesse strade, dalle sue stesse città, dalle stesse città europee, ma soprattutto all'estero, perché con il colonialismo, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è questo uno, non è solo questo, che evidentemente l'aspetto dei migranti, ma certamente è un punto di vista, è un'angolatura che manca negli organi di informazione, ma che manca anche nelle riflessioni di compagni e compagne, e noi vorremmo tentare di affrontarlo anche da questo punto di vista. Ancora qualche momento di musica. Vacuum still pack. Four of them pack fit in a Gucci brown sack. Westmoreland pass to Kingston Air Park. Delivered to pilot and chestnut depart. Yo, herbalist, high grade specialist. Export green stash, import green cash. Buy a escalator so the money get washed. Your hand feel like sick, no more callous, no rash. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Babylon them thief, my herb them thief, my herb. Qual è la situazione oggi dei migranti? La domanda a cui non si può rispondere così, che è una domanda che presuppone una serie di dati, di conoscenze, di perché è una situazione che è per certi versi inqualificabile, perché proprio non si riesce ad avere il polso della situazione a livello mondiale, ma nemmeno a livello europeo. E comunque si fa fatica anche a raccogliere i dati, perché i dati ci sono, ma bisogna andarci a cercare, perché al solito la grande stampa, i grandi mezzi di comunicazione, se te li dicono in una maniera che torna, in una maniera che non infastidisce mentre ti stai mettendo a mangiare comodamente, insomma, no? rispetto a quelle situazioni. Qui non parliamo certamente dei nostri ricchi e dei nostri super dotati di agi di comodità. Parliamo anche di persone normali a cui i nostri mezzi di informazione, c'è poco da fare, non vogliono dar fastidio. Dice: perché gli devi rovinare il pranzo, gli dai queste notizie che i bambini muoiono di fame, che qua, che là, che so, a fuoco, che un barcone si è rovesciato per mare. E allora cercano sempre di metterle in una maniera che sia da un lato spettacolare e dall'altra, diciamo così, accettabile, che non ferisca più di tanto. C'è sempre questa ipocrisia nell'informazione di oggi. Intanto cominciamo dalle cifre. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che è una delle tante sigle che fanno capo all'ONU, che insomma è una delle tante organizzazioni che si occupano di questi problemi qua, in questi primi sei mesi, e la statistica è aggiornata al 10 giugno, quindi parliamo di cinque giorni fa, sono arrivati in Europa complessivamente poco più di 207.000 migranti. Ci sono dentro, con questo termine si identifica anche i richiedenti asilo, quelli non richiedenti asilo, profughi, eccetera eccetera, varie categorie in cui purtroppo poi queste persone sono state suddivise, perché appunto si parla di migranti economici, di altre cose, insomma, considerandoli tutti sono più di 207.000, di cui 157.000 sono arrivati in Grecia e 48.000 in Italia. Quindi c'è ancora una grossissima sproporzione tra la rotta balcanica e la rotta mediterranea, insomma, nonostante tutti gli strilli che qui fanno fascisti, leghisti, razzisti di vario tipo, insomma, sull'Italia invasa e così via. La rotta balcanica, e quindi attraverso la Grecia, è ancora quella che riceve la maggior parte di questi migranti. L'Italia, dicevo, 48.000. In Spagna, una volta c'era anche lì una rotta non molto trafficata, ma insomma attraverso lo stretto proprio, e tra l'altro più facile, molto vicina, più vicine alle rotte, le coste della Spagna, del Portogallo, Spagna soprattutto, all'Africa, che quelle della Sicilia alla Libia, insomma, no? E lì è appunto il dirimpettaio è il Marocco, ma tra Stato del Marocco e soprattutto Stato spagnolo, insomma, lì i fili spinati e le cose hanno cominciato a sorgere molto tempo fa, e si è quindi praticamente interrotta con estrema brutalità, è stata interrotta questa rotta migratoria attraverso Ceuta, attraverso quel tratto di mare che separa l'Africa dall'Europa, che è il più vicino praticamente. E poi da lì ne sono arrivati 1352, quindi pochissimi, e 28 a Cipro, perché non bisogna mai dimenticare che anche Cipro fa parte dell'Unione Europea. Però pensate, che Cipro è molto più vicina alle coste, all'Egitto, al Libano, diciamo al Medio Oriente, alle coste così e così via, eppure ne arrivano molto pochi. E c'è da chiedersi perché, un po' perché probabilmente non vengono, per andare a Cipro non arrivi dalla Turchia, ovvero potresti anche farlo, perché non a caso una parte di Cipro è diciamo turca, c'è stata addirittura una guerra tra i ciprioti filoturchi e i ciprioti filogreci, diciamo così, i turchi ciprioti e i greci ciprioti. E però evidentemente non è soltanto un problema di rotta, di difficoltà, perché appunto potresti dalla Turchia, invece che dirigerti verso la Grecia, dirigerti anche verso Cipro, ma evidentemente l'accoglienza a Cipro deve essere proprio brutta, e quindi i migranti o chi ne fa traffico queste cose le sanno, insomma. Comunque i dati sono questi. Detto questo, allora, oltre 207.000 arrivi fino al 10 giugno di quest'anno, dall'inizio dell'anno, che sono di più di quelli dell'anno scorso, ma non molti, non così molti come anche qui insomma vogliono farci credere, perché bisogna ricordare che l'anno scorso, fino al 31 dicembre, sono arrivati in Europa più di 1 milione di migranti. Se al 10 giugno, quindi a 6 mesi dall'inizio dell'anno, siamo a 207.000, anche se insomma l'anno scorso è stata nella seconda metà dell'anno scorso che è aumentato di molto l'arrivo di queste persone, insomma non è che in questi primi 6 mesi le cifre siano così esorbitanti rispetto, così più grandi diciamo rispetto a quelle dell'anno scorso. Quello che è più grande però rispetto all'anno scorso e di parecchio è il numero di morti, e questo pure deve far riflettere. Quest'anno ci sono stati 2.856 morti fino al 10 giugno, i dati sono sempre dell'Organizzazione Internazionale della Migrazione, mentre nel 2015 alla stessa data erano stati 1.838, quindi un aumento notevole di circa 1.000, da 1.838 a 2.800 sono più di 1.000. E quindi un aumento molto molto grande, insomma. Tant'è che il tasso, se uno, fanno anche delle statistiche evidentemente di queste organizzazioni, allora dal 2014 e per tutto il 2015 il tasso di mortalità che riguardava queste migrazioni, questi migranti, era di uno ogni 50 un migrante ogni 50 moriva durante il viaggio. Adesso, calcolando il tasso in questi primi 6 mesi del 2006, ne muore uno ogni 23, quindi c'è un raddoppio secco. E d'altra parte, se appunto il numero dei morti è passato da 1.838 a 2.856, sì, insomma, il conto è presto fatto. Questo per dire subito che la crudezza dei numeri è tale per cui poi alla fine come fai a infiocchettarli, come fai a dire sì però quello stava sul gommone che era bucato, quell'altro stava sul barcone, che cosa ti inventi per giustificare diciamo queste disgrazie, insomma, no? Rimanendo nell'ambito della disgrazia e non arrivando ancora diciamo a quelle discussioni che viceversa venerdì ci piacerebbe fare. E poi c'è da considerare che cosa? Che chi sono, insomma, a parte chi sono questi migranti, anche qui si può fare le statistiche sui paesi di provenienza. Allora ci sono molti siriani e africani, è vero che periscono di là, in Italia arrivano più di nigeriani, centrafricani, Africa subsahariana, ma al di là di questo, quello che colpisce ancora una volta, e qui i dati ce li dà un'altra organizzazione dell'ONU che è l'UNICEF, che una persona su tre che arriva in Europa come migrante è un bambino. Quindi il 30%, più del 30% per la verità, se ricordo bene la cifra esatta è intorno al 36-37%, quindi un poco più di un terzo delle persone che arrivano in Italia sono bambini, e quando diciamo bambini si considerano bambini insomma fino a 15 anni, a questa età, quindi ovviamente ci sono quelli dei 15, 12, tanti dei 7, 8 e così via. E la cosa ancora più grave è che molti di questi non sono accompagnati. Quindi, e questo dà il senso della disperazione. Perché? Perché come può immaginare insomma, una madre, un padre, genitori che lasciano un figlio, che una figlia, quello che sia, che gli dicono vai, mettiti in viaggio, fai questo, fai quell'altro, arriva là, magari lo affidano a un conoscente adulto, lo affidano così per il viaggio, dopodiché comunque non sono accompagnati dai loro genitori, sono soli, non hanno parenti stretti, quando il termine non accompagnato questo significa. E appunto questo è ancora di più indice di situazioni veramente disperate. Di queste statistiche quello che colpisce ancora di più è che se molti di questi non sono accompagnati, e però non c'è una statistica generale, si è riuscita a fare proprio sulla rotta libica, cioè sulla migrazione che investe più direttamente l'Italia, e lì si è scoperto che negli ultimi sei mesi, sempre dall'inizio dell'anno, 9 su 10 dei bambini che arrivano non sono accompagnati. Quindi la quasi totalità dei bambini che arrivano dalla rotta libica qui in Italia non sono accompagnati né da genitori né da parenti, e presentano qui ci sono state varie anche qui inchieste, le ha fatte l'UNICEF, ma le ha fatte anche Amnesty, così ne parleremo un attimo, che questi bambini sono oggetti, perché se ne trovano le tracce alla visita medica, ai colloqui che riescono a fare quando arrivano in Italia e così via, si trovano indizi di violenze sessuali sui bambini. Le ragazze bambine, perché le chiamiamo ragazze ma sono ancora bambine, che in età appunto 12-13 anni, così 14 anni, spesso sono incinta. Perché? Perché più ancora che durante il viaggio è all'arrivo, quando si arriva in questi posti che nessuno ci ha mai fatto vedere come sono fatti, che possiamo solo immaginarceli, dove vengono ammassati da chi poi fa il traffico e li mette, li carica su un barcone con un presunto accompagnatore che è anche lui mezzo trafficante, mezzo ricattato, mezzo migrante e mezzo trafficante, non si capisce mai bene. Tu comincia con questa barcaccia, guida finché puoi, tanto poi verranno a prendervi, questa poi è la cosa, e in cambio tutto questo dei soldi. Beh, prima che il viaggio cominci, che ci sia l'imbarco e così via, evidentemente la permanenza di queste persone che hanno attraversato altri paesi, che arrivano in qualche luogo sulle coste della Libia o magari anche della Tunisia, perché qualche viaggio viene anche dalla Tunisia, non solo dalla Libia, eccetera, e vengono sottoposti a questo tipo di violenze. Violenze sessuali in questo caso, ma non sono solo le violenze sessuali, perché Amnesty in particolare ha pubblicato un rapporto di recente, molto recente, di pochi giorni fa, ha intervistato 90 persone sistemate nei campi di accoglienza cosiddetti in Puglia e in Sicilia, e tutte quante provenienti dalla Libia, e 20 di questi persone, in questo caso persone adulte, quindi abbiamo parlato dei bambini e delle violenze sui bambini e le bambine, in questo caso persone adulte, raccontano di abusi, di privazioni e torture fatte dai responsabili di questi centri di detenzione, perché alla fine sono centri di detenzione lì in Libia, dove vengono ammassati in attesa dell'imbarco, e poi vedremo come come viene fatto, come si paga tutto questo. Cioè, immaginiamo che c'è gente che parte, che ne so, dalla Nigeria, dal Mali, da questi posti qui, dal Sudan, dall'Eritrea, con i soldi in tasca, con 2000 euro, perché tanto grosso modo so i numeri che girano su quanto si prendono per farti imbarcare e così via. Pensiamo che ce li hanno tutti i 2000, oppure partono con qualche soldo per pagarsi il viaggio dal Mali, per esempio, fino alla Libia, e poi però l'imbarco, quello è ancora un altro costo, è un'altra organizzazione, probabilmente non è un'unica organizzazione, è un altro trafficante, quindi da una parte paghi quello che ti fa attraversare il deserto, si fa per dire, e poi devi pagare quell'altro. E quell'altro come lo paghi? Vecchia, vecchissima canzone di Henry Belafonte che parla del lavoro di giamaicana, origine giamaicana, di questi scaricatori che caricavano banane sulle navi di trasporto, eccetera, e l'abbiamo messa perché ricorda molto certe situazioni di oggi che ancora capitano a chi scappa, a chi cerca di emigrare. Six hand, seven hand, eight hand bunch. Till I come and me won't go. De, misadeo. Till I come and me won't go. De, misade, misade, misade, misade. Till I come and me won't go. A beautiful bunch. A ripe banana. Till I come and me won't go. Hide the deadly black tarantula. Till I come and me won't go. Live six hand, seven hand, eight hand bunch. Till I come and me won't go. Me say six hand, seven hand, eight hand bunch. Come, Mr. Tallyman, and tally me banana. Till I come and me won't go. Me say, come, Mr. Tallyman, and tally me banana. Till I come. Ecco, proprio quest'ultima strofa praticamente dice... caro ragioniere, caro contabile, insomma, sbrigati a fare i conti, che noi siamo stanchi e vogliamo andarcene a casa, ai conti di quello che abbiamo imbarcato, caricato, eccetera eccetera, fai presto che noi vogliamo andarcene a casa. È una canzone di lavoro, di una condizione non di schiavitù, ma insomma di un lavoro pesante, mal pagato e così via, di persone di colore per una compagnia di banane che non è certamente gestita da loro. I bananieri sono stati nel tempo e ancora adesso, non perché le cose siano cambiate, dei negrieri, degli schiavisti, insomma, nel vero senso della parola, sfruttatori, eccetera eccetera. E questa canzone, insomma, parlava un po' di queste condizioni. Tanti anni fa, parecchie, uscita fine anni 50, primi anni 60, questa canzone, la canzone a sua volta si riferisce a situazioni ancora precedenti, evidentemente, come oggi, viceversa, uno potrebbe dire sono passati tanti anni, le cose migliorano, no, le cose peggiorano, perché al peggio, come dice il proverbio, non c'è mai fine. E allora ecco qui che ce lo fa capire Aimano, un ragazzo di 15 anni che ha lavorato in Libia in una fattoria insieme per due mesi insieme ai suoi fratelli, altri due fratelli con cui poi è arrivato in Italia, ed ha lavorato lì per pagarsi il viaggio e pagare quindi i trafficanti che lo avrebbero portato in Italia, poi portato, come dicevo prima, insomma, a un certo punto ti abbandonano in mezzo al mare, non ti ci portano mai, perché per non essere arrestati. Quindi ecco che dice come se lo pagano il viaggio. Se lo pagano così, arrivano in Libia, c'è qualcuno che li mette a lavorare, in questo caso in una fattoria, ma possiamo immaginare quali altre tipologie di lavoro gli vengono offerte, a quali condizioni, a quali costi, a quale remunerazione, eccetera. Questi tre fratelli si sono pagati il viaggio con 2 mesi di lavoro ciascuno, gratis probabilmente, gli avranno dato da mangiare e in cambio poi li hanno fatti imbarcare su una zattera, un gommone. E lui cosa dice? Cosa ha di ricordo principale in questa intervista, racconto che ha rilasciato? Dice: stavo in un posto dove se tentavi di scappare ti sparavano, se smettevi di lavorare ti picchiavano, era proprio come stare all'epoca degli schiavi. Ecco, le stesse condizioni di schiavitù, le stesse condizioni di sopraffazione, la frusta, altro, insomma, altro che uno l'ha letto, la capanna dello zio Tom, quelle cose là che parlavano della schiavitù, che poi molto edulcorata la campagna dello zio Tom, insomma, ma tanto per citare qualcosa che è molto noto. Ecco, quelle condizioni sono esasperate al peggio perché non è soltanto lo sfruttamento, qui non si mira più semplicemente, no? C'è anche ancora quello, no? Allo sfruttamento della forza lavoro, qui si mira al valore peso della vita, quanto vale la tua vita, vale 2000 dollari, no, la vita di questa gente probabilmente vale molto meno, perché poi se crepi in condizioni e qualcuno dovesse rimborsare, immaginando che valgano gli stessi canoni che ci abbiamo in Occidente per le assicurazioni, tanto per avere dei parametri, lì non varrebbero assolutamente niente. Hanno valore nel momento in cui la tua necessità di scappare dalla fame, dalla guerra, dalla carestia, da quello che volete, dall'AIDS, perché c'è pure questo, insomma, in certe zone dell'Africa, è talmente forte che tu sei disposto a fare qualsiasi cosa per quello che c'hai di fronte, purché quello ti faccia mettere piede su quella maledetta barca che dovrebbe portarti in Italia o in Grecia, in Europa, la salvezza, il benessere, la felicità, si fa per dire sempre. Ecco, tu sei disposto a fare qualsiasi cosa, e allora ecco che la tua vita vale quello che sei disposto a fare. E quello che sei disposto a fare, quando non te lo impongono, come ai bambini, con le violenze, con la forza, eccetera, eccetera, praticamente non ha limiti. Saresti disposto a fare tutto, anche perché non hai alternativa. Come puoi immaginare che uno che ha fatto un viaggio di 1000-2000 chilometri, è arrivato in Libia, mano a sta gente, dice: ah, mi trattate così, volete tutti questi soldi? Beh, no, allora io non ci sto, me ne vado. E dove vai? Chi ti riporta indietro? O ti arruoli in una milizia, vai a combattere, vai a fare questo, se no dove vai? No, non c'è posto, non è da manca a dire che nell'ambito del male e del malaffare dice: beh, mi rivolgo a un'altra organizzazione, a un altro trasportatore. Non è così, non c'è possibilità. Quindi è un passaggio obbligato, è una forca a cui non ti puoi sottrarre una volta che, quando hai cominciato quel viaggio dal tuo paese natale, da dove residevi, eccetera eccetera, da dove fuggi e non vedi l'ora di fuggire, una volta che sei arrivato magari non vedresti l'ora di tornare indietro rispetto a quello che trovi, ma non lo puoi più fare. Perché? Perché le condizioni poi in Libia sono quelle che sono, in Libia o in altri posti del genere, e quindi non ti resta che fare a tutti i costi, e a tutti i costi proprio letteralmente, pagando, facendoti sfruttare, facendo quello che ti chiedono di fare e che tu a quel punto sei disposto a fare, pur di levarti da quel posto. È l'unico modo di levarti da quel posto, perché ti schiavizzano, ti rinchiudono, ti torturano, ti fanno violenza, è rischiare la vita su un barcone che ti porta da questa parte. Insomma, questo è il quadro che si può fare, e su cui in prospettiva non solo queste cose non caleranno, ma anzi aumenteranno. E quindi qui entra tutto il ragionamento politico che vorremmo fare, diciamo, proprio dopodomani, insieme a Franco Portelli e a Giacomo Sferlazzo, che è un compagno che vive a Lampedusa e che quindi ci racconterà, ci farà un racconto diverso rispetto a quelle narrazioni televisive, giornalistiche, quello che sia, che ci fanno vedere sempre questo sindaco di Lampedusa, così aperta, così brava, candidata da qualcuno anche al premio Nobel, cose di questo tipo, quindi che dipingono questa situazione di Lampedusa come una situazione, se non perfetta, ma insomma da elogiare, che non ha tanti problemi, sì, ce l'ha, ma insomma veramente quasi rose e fiori, molto molto confettosa, molto dolce, ecco, così ce la presenta. Non è proprio così, lo sentiremo dalle sue parole, sentiremo anche insomma da chi magari li ha visti più, sicuramente più di noi e di tanti altri, queste persone arrivare, in che condizioni sono, cosa chiedono, come vengono trattate. Ecco, quindi un racconto di prima mano e un'impressione di prima mano. E appunto discutere di queste cose politiche, di queste migrazioni, il senso di queste migrazioni, il senso della lotta dei migranti, perché è vero poi che già questo viaggio va interpretato come una lotta, ma poi anche se uno non lo volesse fare, molti migranti hanno dato segno di voler lottare. Quando si ribellano ai Domeni, quando si ribellano a a Ventimiglia o in altri posti dove si scontrano con la polizia, perché vengono maltrattati senza dignità, perché ti chiudono, perché sei un rinchiuso dentro questi campi e così via, ci sono state le rivolte, ci sono state le ribellioni, ci sono stati gli scontri, quelli sono momenti di lotta, fuori discussione, perché dici io voglio andare là, perché me lo impedisci, perché dici che l'accoglienza quello e quell'altro, e poi non è così, perché mi cominci a dire tu sei profugo o sei un migrante economico, scappi dalla fame o scappi dalla guerra, come si fa a distinguere, a parte il diritto di fare, e la vergogna più che il diritto, insomma, di fare una domanda del genere a persone di questo tipo. Ma chi si sente fare una domanda del genere, come potrebbe rispondere? Cioè che risposta potrebbe dare, se scappo dalla fame o scappo dalla guerra, qual è la differenza? Insomma, è come appunto se ti dicessero se vuoi morire di fame o se vuoi morire sotto un bombardamento. Probabilmente se questa fosse la domanda, molti direbbero, non so se la maggioranza o meno, ma comunque molti direbbero fammi morire sotto un bombardamento, che è più rapido, che soffro di meno, perché credo che morire di fame sia una bella sofferenza. E quindi questa è l'aspetto più politico, gli aspetti più politici che vorremmo affrontare in questo dibattito di dopodomani. E ripeto, venerdì 17 giugno alle 18:30 gli abbiamo dato un titolo anche qui significativo secondo noi: Nostra patria è il mondo intero, che è la strofa, un pezzo di una strofa di una vecchia antica canzone anarchica molto bella, che dice appunto: nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, eccetera eccetera. Ecco perché, così dovrebbe essere, non ci dovrebbero essere dubbi assolutamente, no, sul fatto di dire che noi siamo contro i confini, contro le barriere, che il concetto stesso di patria ci suona male, ci infastidisce, ci crea dei problemi. Perché? Perché siamo di antica tradizione, di antiche lotte, di comportamenti riconfermati nel tempo, siamo contro appunto le patrie, contro le bandiere, contro i confini, siamo per una fratellanza, se si può usare questo termine, universale. E dunque dice: qual è la tua patria? È il mondo intero. Siamo cittadini e cittadine del mondo, insomma, almeno così dovrebbe essere, poi così non è. Però così dovrebbe essere questo, e quindi abbiamo usato proprio questo titolo qui: Nostra patria è il mondo intero, anche per ricordarcelo, perché magari ce lo scordiamo queste cose qui, da dove veniamo politicamente, quali sono stati i nostri precursori che hanno intrapreso determinate cose. E quindi dalle 18:30 con Sandro Portelli e Giacomo Sferlazzo e con i compagni e le compagne della redazione di Radio Onda Rossa parleremo di migrazioni e di migranti. quindi concludendo questa un po' presentazione della festa e soprattutto del dibattito che volevamo fare, abbiamo dato qualche spunto così di ragionamento, soprattutto degli spunti pratici, numerici, di condizione, di situazione, ma quello che ci aspettiamo è soprattutto una riflessione, la capacità di riflettere e di non lasciarsi semplicemente intruppare da quello che è un sentimento di anche cristiano, se vogliamo utilizzare questo termine, di misericordia, di pietà, di compassione, che ci porta poi a declinarlo in termini più laici, la politica dell'accoglienza, queste cose qui. Certamente non vogliamo neanche noi rifiutarle, è la prima cosa spontanea che ti viene in mente, però non basta assolutamente. Quello che serve è un passo in più, è capire che cosa significa tutto ciò, che cosa rappresenta, e possibilmente poi decidere come agire. E allora, come ultima nota, ancora ripetiamo l'appuntamento per questi due giorni di festa, a partire da dopodomani, venerdì 17 giugno, dalle ore 18:30, Nostra Patria e il Mondo Intero, dibattito con la redazione di Radio Onda Rossa, insieme a Sandro Portelli e Giacomo Sferlazzo, che viene appositamente da Lampedusa, sui migranti e le migrazioni. Lo stesso giorno alle 21 i concerti con High Shine, che è reggae, Alga Kombu, rock, scusate non leggo bene, rock de gender, Femal Trouble, rock and roll, Fibli Fetzer, brass and roll. Questo concerti, quattro gruppi musicali alle 21 di dopodomani, venerdì 17 giugno, e sabato 18 giugno pomeriggio per i bambini dalle 18 letture ad alta voce di fiabe, albi illustrati a cura di Scarpette Rosse, e poi dalle 21 una mano sul Core 5 con un pacco di attori e attrici che vengono a questa festa di Radio Onda Rossa per sostenerla nel suo funzionamento, come speriamo facciate tutti quanti e tutte quante voi, partecipando a queste due giorni di festa indetta, organizzata da Radio Onda Rossa. Arrivederci quindi, a dopodomani, vi aspettiamo a cominciare dalle 18:30 con un dibattito sulle migrazioni. Ovviamente il posto, dice, dove avviene tutto questo? In via Prenestina 173, che è l'ex centro, cioè è il centro sociale ex SNIA, stavo per dire ex centro sociale, e invece è il centro sociale occupato ex SNIA.